Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Organi ricostruiti cellula per cellula grazie a stampanti 3D o ricreati interamente a partire da uno scheletro proteico riempito di cellule del paziente da trapiantare. Per l'ultima puntata dello speciale Smart City, dedicata all'uomo bionico, cercheremo di gettare lo sguardo su un mondo che per il momento rimane ancora chiuso nei laboratori di ricerca. Infatti, anche se già oggi esistono esempi limitati di persone che vivono grazie a un cuore o a un polmone artificiale, in questo caso organi fatti di metallo e biopolimeri, si tratta di apparecchi che non possono avere altra funzione se non quella di traghettare il paziente verso il trapianto. Ma seppur ancora in pochi luoghi del mondo si può assistere a scene che hanno dell'incredibile: piccoli cuori che battono, polmoni che si gonfiano e sgonfiano, cresciuti all'interno di campane di vetro a partire da poche cellule disseminate in una sorta di condominio di proteine. E proprio da uno di questi luoghi vogliamo partire per questa nostra puntata. Andiamo alla Minnesota University, dove Doris Taylor e il suo gruppo di ricerca in medicina rigenerativa hanno segnato una pietra miliare verso la creazione di veri e propri organi di ricambio. Ascoltate. I absolutely see a day where you'll walk into a manufacturing facility somewhere and there will be jars of kidneys, and jars of livers, and jars of lungs, whatever it is you need. Ecco, avete sentito, quella che Doris Taylor prefigura è una vera e propria fabbrica di organi, dove si producono in vitro cuori, polmoni, fegati, reni. Nel 2008 Doris Taylor e il suo gruppo sono riusciti a ricreare un cuore di ratto vivo e battente, partendo da un cuore di ratto morto e da alcune cellule. La procedura più o meno funziona così: si prende da un cadavere l'organo di cui c'è bisogno, lo si sottopone a una procedura appunto che rimuove tutte le cellule presenti, una specie di lavaggio che lascia intatta solo la struttura di supporto dell'organo, lo scaffold, come si dice in gergo. L'organo, dopo questo trattamento, si presenta come una specie di gelatina bianca formata da un intricatissimo intreccio di fibre di collagene che ne riproducono fedelmente ogni più piccolo dettaglio, dai vasi sanguigni a tutte le altre strutture, muscoli, alveoli per esempio, e così via. E a questo punto che questa sorta di fantasma dell'organo originario è pronto a ricevere un infusione di cellule provenienti dal paziente di cui appunto si vuole ricostruire, in questo caso, il cuore. È l'inizio di una procedura che ancora una volta vi faccio ascoltare dalle parole di Doris Taylor. Just putting cells on a scaffold isn't enough. It's putting cells on a scaffold and giving them an electrical signal and giving them a mechanical blood pressure and then giving them oxygen. It's not just a heart in a jar, it's a heart in an artificial body. So it's simple in many ways and it's unbelievably complicated. Ecco, come avete sentito, per convincere le cellule a popolare questo organo fantasma e riportarlo a nuova vita, bisogna ricreargli intorno un po' l'equivalente di un corpo artificiale. Un cuore, per esempio, ha bisogno di ricevere opportuni stimoli elettrici, meccanici e chimici per crescere, diciamo così, correttamente. Una coppia di polmoni ha bisogno, per crescere, di continuare a gonfiarsi e sgonfiarsi perché le cellule possano riconoscere l'ambiente e comportarsi come delle cellule polmonari. Ed è proprio così che sono stati ricreati, questa volta al Massachusetts General Hospital, con la stessa procedura applicata nel caso del cuore, appunto un paio, questa volta, di polmoni, sempre di ratto. Questa è una delle strade più promettenti per creare organi artificiali, ma in un futuro un po' più lontano ci potrebbe essere qualcosa di ancora più sorprendente. Sam Wadsworth, un biologo cellulare, imprenditore e fondatore di Aspect Biosystem, specializzata in ingegneria dei tessuti e in bioprinting, racconta la sua visione del futuro, un futuro in cui sarà possibile creare copie di organi grazie a stampanti 3D capaci di depositare cellule viventi. Ascoltiamo. This is what's going to happen in 2056. Some cells will be taken, maybe from my blood, possibly from a skin biopsy. Those cells will go into a laboratory where they're grown and they're reprogrammed to become lung cells. When there's enough of those lung cells, they'll be put through a machine called a bioprinter. And that bioprinter will fabricate a 3D structure that resembles a lung. After a few weeks, that lung will have matured to a stage where it's ready to be put back inside my body to replace the diseased organs. This whole process will take just a few months. And the beauty is that that lung that is implanted into me will contain my own cells, so there will be no chance of rejection. I won't have to spend the rest of my life on anti-rejection drugs. Insomma, avete sentito, questa è la visione di Wadsworth: pochi mesi per creare una copia di polmoni a partire da un campione di tessuto del paziente, sangue o addirittura pelle. Certo, si parla di parecchi decenni. Questo è davvero tutto, il nostro speciale Smart City dedicato all'uomo bionico si conclude qui. L'appuntamento con l'innovazione torna lunedì, sempre con Smart City, sempre qui su Radio 24. Buona serata, buon fine settimana a voi tutti. Scoprite le tecnologie e le personalità del futuro su audinnovative.it.